quello che stiamo pensando con un po' di gente che abita qui in Bolognina, un po' di gente che qui in Bologna da qualche anno ha fatto, preso casa, ha messo su una famiglia con dei bimbi, e per cui lo spazio di XM è uno spazio, è aria, è uno spazio vitale, e per noi è un, insomma, cioè, viviamo un po' con una certa preoccupazione l'idea di una Bolognina senza l'XM. E se da una parte come diciamo, chi ha dei bimbi e chi, diciamo, è alla ricerca o ha un lavoro, insomma, conosce, ovvero la difficoltà di ricavarsi dello spazio per fare delle cose al di là della famiglia e del lavoro, quindi se da una parte ci risulta difficile partecipare attivamente all'autogestione di questo spazio, anche se sinceramente vorremmo, in vista del 29 quello che abbiamo pensato è quantomeno restituire un pizzico di quello che l'XM ci ha dato negli anni in cui abbiamo vissuto in questa città, in particolare in questo quartiere, organizzandoci all'interno del corteo del 29 con uno spezzone di genitori con i bimbi per restituire all'XM, restituire alla città l'idea che per noi questo spazio è vitale. È vitale per noi, è vitale per i nostri bimbi, che se per 3 giorni non veniamo in XM ci chiedono: papà, mamma, ma cioè, è tanto che non passiamo in XM. Faccio questa domanda, faccio la domanda da cittadino medio un po' filo giunta, ma come dei bambini a XM in questo luogo pieno di gente brutta, sporca e cattiva, con i cani, com'è possibile tutto ciò? Perché si trovano bene qui i vostri bimbi? E c'è una differenza di percezione, secondo me, tra chi questo spazio lo vive e chi questo spazio, diciamo, lo vive attraverso le parole della Lega, le parole del comune, che io, diciamo, spesso lavoro, io sono libero professionista, lavoro da casa, spesso lavoro mentre sento, molto spesso sento i consigli comunali e percepisco, diciamo, l'approccio difensivo dell'amministrazione comunale rispetto alle pressioni che la destra di governo della destra di opposizione ancora, insomma, in questa città fa in consiglio comunale rispetto alla situazione dell'XM. 2 consigli comunali su 3 all'ordine del giorno c'è la questione XM, e molto spesso la Lega incalza sul tema del degrado, di uno spazio che non è, diciamo, compatibile col quartiere. In realtà sull'incompatibilità di questo spazio rispetto al quartiere io ho sentito parlare non soltanto la Lega, ho sentito parlare anche il PD in questa città, no? Che prima ci voleva fare una caserma, poi ci voleva fare un asilo nido, poi ci voleva fare delle case popolari. In realtà, diciamo storie inventate per trovare un modo, cioè non avendo una politica sugli spazi differente da quella della Lega, in qualche modo la mia percezione è che ci sia una sudditanza politica a un immaginario, no, del degrado che non è la nostra, che viviamo questo spazio, e se questo spazio lo vivi, lo frequenti e lo attraversi, non c'è nessuna contraddizione. Giovedì prossimo farete qualcosa, giusto? Preparerete qualcosa per 29? Allora, l'idea che ci è venuta, ma ci è venuta in questi giorni, abbiamo cominciato a discutere da un paio di giorni, quindi l'idea è informazione. L'idea è quella di partecipare al corteo del 29 con una presenza di genitori con i bimbi all'interno del corteo, una presenza colorata, festosa, bimbesca e quant'altro. E sono primi bimbi che vogliono partecipare perché sentono l'importanza di questo spazio e sono preoccupati per ma è vero papà che sgomberano l'XM? Quindi quello che stiamo cercando di fare è creare questo, diciamo, costruire questo spezzone il più partecipato possibile. Giovedì prossimo alle 6 in XM ci incontriamo per immaginarci e creare uno striscione fatto dei bimbi, con le parole dei bimbi, e nel frattempo, in questi giorni, poi cominceremo a preparare la presenza nostra di persone che vivono in questo quartiere e ci vivono con i propri bambini, in modo tale da comunicare al meglio alla città che questo spazio per noi è una risorsa importante.